che siamo in collegamento con Tommaso Colliva dei Calibro 35, che domani si esibiranno all'interno di Sunshine Super Heroes Festival organizzato dal Locomotive Club all'Arena Puccini. Quindi diamo il benvenuto a Tommaso. Ciao. Buongiorno a tutti. Ciao. Ciao Tommaso. Allora, appunto, domani sarete a Bologna e comincia il Post Momentum Tour, addirittura qualche giorno prima dell'uscita ufficiale dell'EP, che sarà venerdì. E su questo EP ho letto una definizione molto divertente, che è un EP spin-off in realtà. Sì, ma infatti guarda, proprio quando ora avete detto Post Momentum Tour, Post Momentum, ho proprio pensato, beh, il titolo l'abbiamo scelto proprio bene stavolta, perché è un titolo, è nato quasi prima il titolo che il discorso dell'EP, cioè noi è uno spin-off del disco scorso, nel senso che come per tutte le persone del mondo, la pandemia è arrivata inaspettata e ha interrotto delle cose che erano in atto. Noi eravamo appena usciti con un disco, avevamo appena iniziato a portarlo dal vivo, avevamo preso una bellissima rincorsa, fatto le prime 10 date in Italia e poi chiuso tutto. Poi ne sono saltate, ne avevamo altre 20 in programma solo nell'estate, solo nella primavera, non abbiamo suonato l'estate, insomma è stato davvero un'interruzione molto forte, per cui quando quest'anno ci siamo detti ok, e il tour di quest'estate cosa facciamo, cosa non facciamo, beh, questo qua è il post momentum, perché noi vogliamo riniziare da dove eravamo, vogliamo riniziare da Momentum, che era il nostro disco prima, perché un po' ci sentiamo di non averlo portato in giro, di non averlo cresciuto bene quel disco, e per cui questo EP nasce come un addendum a quello. C'erano delle idee che erano rimaste nel cassetto, le abbiamo ritirate fuori, le abbiamo finite di cucinare e quelle si vanno ad aggiungere al disco precedente, ed è quello che porteremo in giro quest'estate. Sì, ecco, infatti se la pandemia, come dire, ha rovinato tutto, volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, è stata anche un'occasione per continuare a sviluppare appunto quel disco, a partire dalla traccia che aprirà l'EP, che è Stan Lee, però in una versione alternativa, anche come dire, per così in un certo senso trovare una quadra a una band come voi che fa della musica soprattutto strumentale e che invece con i brani cantati, diciamo così, è un po' più difficile la dimensione live. Assolutamente, ma infatti è stata anche l'occasione, come dicevi tu, di andare a fare una cosa. Io è 20 anni più o meno che faccio dischi e c'è sempre questa dinamica per cui uno dice ah no, il disco dovremmo riregistrarlo dopo un anno che lo stiamo portando in giro dal vivo. In parte questa EP è stata anche l'occasione, perché quando ci siamo detti ok, da dove ripartiamo, e ci siamo detti concettualmente ripartiamo da dove ci eravamo fermati, uno dei primi pensieri è andato a questa versione di Stan Lee che abbiamo fatto per la prima volta dal vivo nel concerto di Milano del, non so, facciamo, se non sbaglio, dal 20 febbraio del 2020, e abbiamo detto ok, questa è l'occasione di registrarla e farne un pezzo, farlo uscire un po' per davvero in compagnia di due artisti con cui ci troviamo molto bene, come Ensie e Gammon, e che sono molto diversi da noi, molto lontani anche dai nostri mondi di provenienza, però con cui c'è stata davvero una buona comunione. Ed è un inedito, perché di fatto questo è il primo pezzo con una voce in italiano su un disco di Calibro, il pezzo di Calibro ovviamente, che non fosse una cover, perché il primo disco aveva due cover. Certo. Venendo un attimo appunto a Momentum e a Post Momentum, cioè ritornando appunto a discutere di questi due dischi, diciamo che insomma nel primo, in Momentum, avete fatto una riflessione anche, no, sulla contemporaneità, dopo aver attinto molto anche al passato nelle vostre sonorità. Quindi Post Momentum può essere, come dire, uno sguardo verso il futuro? Post Momentum di fatto lo sarà sicuramente. La cosa molto interessante è notare come noi abbiamo fatto, appunto, è stato interrotto il tour di Momentum nel inverno primavera 2020. Poi l'anno scorso siamo riusciti per un breve lasso di tempo a fare delle date in estate e avevamo proprio notato che anche i riferimenti, gli skit che avevamo preparato, i parlati che avevamo preparato da mettere tra i brani, erano risultati obsoleti in un lasso di tempo davvero rapido. Ora la mia impressione, molto soggettivo, ma che il mondo che verrà sia tutto da costruire, e Post Momentum è il primo passo che facciamo noi per costruirlo. Quindi insomma vi sentiremo i Calibro 35 in una versione un po' diversa anche rispetto a quella che abbiamo conosciuto. Assolutamente, sì. Infatti è stata molto bella la sensazione che abbiamo avuto una settimana fa quando ci siamo visti in sala prove e mettendo sui pezzi di Momentum ci sono risultati molto freschi, ci sono risultati molto nuovi, seppure li abbiamo incisi 2 anni fa. E questo è vero per noi, ma è vero anche per il pubblico che ci viene a vedere. Certo, quindi domani a Bologna all'Arena Puccini presenterete già appunto Post Momentum e anche magari alcuni brani di Momentum. Assolutamente, domani scalettona mista, lunga e mista, perché abbiamo voglia di suonare, per cui c'è dentro Momentum, ma c'è dentro Post Momentum, e ci sono dentro dei pezzi che siamo andati a ripescare dal passato, perché abbiamo sempre il momento in cui diciamo: ah, ma questo pezzo non lo suoniamo da una vita, riprendiamolo, e abbiamo ripreso un po' anche di quelli. Certo, ecco, questa diciamo è la prima tappa, poi invece si sta costruendo, come dire, una tournée in quest'estate 2021 che insomma sembra dare un po' più di respiro, con un po' più di margine rispetto anche all'anno scorso. Sì, speriamo. Ovviamente lo dico molto molto molto a bassa voce, però incrociamo le dita, sembra ci sia una fiducia generale un po' più diffusa, che ovviamente adattarsi alle situazioni è diventato ormai un obbligo, e per cui anche noi abbiamo un calendario in cui siamo sicuri che suoneremo. Quanto e come lo vedremo man mano che si svolge il calendario, però almeno 10 concerti li faremo quest'estate e siamo già felicissimi così. Certo, oltre a Bologna, visto che sarete a Roma, poi sarete in Piemonte, adesso non ce l'ho sotto mano, però insomma girerete un po' comunque in diversi luoghi d'Italia. Assolutamente, andiamo anche in Sicilia finalmente, sì, torneremo a esperire quella cosa che si chiama tour, che è una cosa che da 2 anni sembra negata.